Benvenuti, questa è una serata basca all'interno della settimana basca di Roma. Noi siamo Associazione Culturale Euskera e Dipartimento di Lingua e Cultura Basca dell'Utter. E ogni anno facciamo più o meno in questo periodo tutta quanta una settimana di iniziative in vari posti della città. Abbiamo iniziato ieri allo spazio Oxygen a Prati. E stasera siamo qui da Giufà, che spesso ci ospita con le nostre iniziative. E continuiamo domani al Cine Club de Tour con una proiezione, venerdì facciamo una serata gastronomica al Pigneto e sabato c'è il concerto di Josefa Tapia e Luis Fernandez, chitarra e violoncello, che sono venuti per presentare il loro nuovo disco e hanno musicato le poesie di un prigioniero politico della guerra civile. Il concerto sarà al Cinema America Occupato a Trastevere e a seguire poi sarà anche il concerto di Fancallisto, quindi insomma, vi invitiamo tutti quanti a partecipare. Loro oggi insomma gentilmente ci aiuteranno un po' nella presentazione suonando qualcosa come intermezzo. E la serata di stasera diciamo che verte su sono due presentazioni da fare. La prima è quella di un nuovo progetto che stiamo portando avanti come associazione che come dipartimento, che praticamente abbiamo fatto una casa editrice che si dedicherà a pubblicare dei libri in formato ebook di letteratura basca, o non solo di letteratura, insomma dei libri baschi tradotti all'italiano in formato ebook. E la casa editrice si chiama Libe e diciamo, dall'altro giorno insomma, abbiamo inaugurato anche il sito, che è libeedizioni.it. È già online e già si possono scaricare i primi due libri che sono stati pubblicati, che sono uno di Koldis Agirre, che si chiama Il tipografo Angiolillo, che è la storia dell'anarchico Michele Angiolillo che è stato giustiziato in Spagna, raccontata nel libro da un prigioniero politico basco condannato durante il processo di Burgos. E l'altro libro, che è un libro di letteratura per ragazzi, di Maria Sunlanda, che è una scrittrice basca insomma, molto conosciuta e molto prolifica in questo genere letterario, e che si chiama Marlene la taxiscarpa, che è un'avventura che una gatta e una taxiscarpa appunto insomma hanno insieme durante una notte in una strada vuota. Sono entrambi molto belli, li potete già scaricare gratuitamente, sia in formato EPUB che in PDF, poi presto aggiungeremo altri formati, ma con calma perché ci stiamo lavorando. Io di questa casa editrice un po' siamo molto felici di esserci riusciti, perché da tanto che ci stiamo pensando, che per noi è un modo per continuare nella promozione della cultura basca. E noi vabbè, anche nella presentazione lo diciamo, a noi piacciono i libri di carta, però insomma diciamo che in questo caso particolare usiamo lo strumento ebook soltanto per cercare di dare una diffusione maggiore a quelli che sono dei testi di letteratura basca che altrimenti non hanno trovato un altro editore, cioè sì, insomma ci abbiamo anche provato attraverso altri canali, ma per il momento non sono stati pubblicati in nessun'altra forma. Ci aspettiamo di poter dare una spinta alla pubblicazione in altro formato di questi testi e la nostra casa editrice è pensata proprio anche per questo. Quindi nel momento in cui ci saranno altre case editrici interessate a pubblicarlo in cartaceo, noi cediamo molto volentieri i diritti perché questo sia possibile. E, vabbè, insomma, penso che continueremo a fare iniziative per raccontare meglio il lavoro che facciamo con la casa editrice. Comunque vi invito ad andare sul sito libedizioni.it per leggere i libri, insomma, che per vedere poi seguire le nostre iniziative. E stasera però poi diciamo siamo qui con Arcai Scano, che è l'autore del libro che presentiamo stasera. Il libro è questo, purtroppo ci sono poche copie perché le abbiamo ordinate ma non sono mai arrivate, le Poste Italiane non ci hanno aiutato in questo. Si chiama Filo d'Erba ed è stato pubblicato l'anno scorso all'interno della collana Premio Ostana della Chambra Doc, che è un'associazione che si occupa insomma, di lingue minoritarie e che ogni anno pubblica un libro tradotto da una lingua diversa all'interno di questa collana. E il libro è stato pubblicato l'anno scorso, ma in realtà alla fine abbiamo provato a presentarlo l'anno scorso, non ci siamo riusciti. Quest'anno invece Arcai è potuto venire e insomma, siamo lieti e liete di essere qui stasera con voi. E stiamo ancora aspettando in realtà Dario Coppola, che ci aiuterà nella presentazione del libro, che purtroppo è stato trattenuto al lavoro, ma sta arrivando, quindi diciamo, magari iniziamo a dire qualcosa, poi lui si inserirà al momento giusto. Okay. Allora, io vi leggo una piccola presentazione che Arcaiz ha scritto per la serata, la leggo direttamente in italiano, e poi insomma, ci saranno delle letture del libro, una parte in euskera, una parte chiaramente in italiano, e poi chi vuole intervenire, chi vuole fare domande, chiaramente insomma, il confronto è aperto. Credo di distinguere due tipi di libri, quelli architettati per lungo tempo, costruiti con notturnità e premeditazione, essendo pazienti, aspettando che il bicchiere si riempia goccia a goccia prima di finire un giorno traboccato, e le storie, per così dire, trovate, quelle che uno non pensava di scrivere, che sono state una sorpresa anche per l'autore. Non saprei dire quali mi piacciono di più. Filo d'erba appartiene senz'altro al secondo gruppo. Fu un libro trovato, scritto quasi in trance, un libro che mi ha sorpreso scrivere, che non avevo intenzione di scrivere e che come tale non ha nulla a che vedere con tutto il resto da me scritto, ma che invece mi fa essere molto contento di averlo fatto. È anche uno dei libri che più gioie mi ha dato, e anche il mio libro più tradotto, visto che, oltre all'edizione originale in basco, hanno visto alla luce le versioni spagnolo, greco, inglese e adesso, grazie a Maria Teresa Torino e Roberta Gozzi e all'impagabile entusiasmo degli amici di Ostana e la Chambre ad hoc, in italiano. Il libro nasce mentre vivevo a Parigi nel 2002 e nasce da vari impulsi. Da un lato la proiezione nelle sale di una copia restaurata e digitalizzata del grande dittatore di Chaplin, e dall'altro la lettura di un poema di Wisława Szymborska, prima fotografia di Hitler. E adesso, la possiamo leggere la poesia così entriamo un po' nell'ambiente. La prima fotografia di Hitler. E chi è questo cupo in vestina? Ma è Adolfino, il figlio dei signori Hitler. Diventerà forse un dottore in legge o un tenore dell'opera di Vienna? Di chi è questa manina? Di chi gli occhietti, il nasino? Di chi il pancino pieno di latte? Ancora non si sa. Di un tipografo, di un mercante, di un prete? Dove andranno queste buffe gambette? Dove? Ai giardinetti, a scuola, in ufficio, alle nozze? Magari con la figlia del borgomastro? Bebè, angioletto, tesoruccio, piccolo raggio, quando veniva al mondo un anno fa non mancavano segni nel cielo e sulla terra. Un sole primaverile, gerani alle finestre, musica d'organetto nel cortile, l'infausto presagio della carta velina rosa. Prima del parto un sogno profetico della madre, se sogni un colombo è una lieta novella, se lo acchiappi arriverà chi hai lungamente atteso. Toc toc, chi è? È il cuoricino di Adolfino. Ciucciotto, pannolino, bavaglino, sonaglio, il bambino, lodando il Dio e toccando ferro, è sano. Somiglia ai genitori, al gattino del cesto, ai bambini di tutti gli altri album di famiglia. Beh, adesso non piangeremo mica, il fotografo farà click sotto la tela nera. Atelier Klinger, Grabenstrasse, Braunau. E Braunau è una cittadina piccola, una dignitosa. Dite solide, vicini da bene, profumo di torta e di sapone da bucato. Non si sentono cani ululare nei passi del destino. L'insegnante di storia allenta il colletto e sbadiglia sui quaderni. Questo poema narra la felice nascita di un bambino, che ancora non è altro che un bambino anonimo come qualsiasi altro, somigliante a tutti i bambini del mondo, e ai gattini raggomitolati nei loro cesti. Ancora niente è successo, solo il lettore attuale, dalla distanza ironica, sa che quel bambino che appena sorride per la foto familiare sarà un giorno un crudele dittatore, mentre nel poema della Szymborska i bambini si annoiano perché non succede niente e il professore di storia si scioglie il nodo della cravatta sbadigliando. Tornare indietro e rifare, uno dei grandi gusti della letteratura. Il filo d'erba è un'ucronia, una storia di passato finzione, e per mettere in moto questa ucronia si serve del e se, quel what if degli anglosassoni. E se Hitler avesse vinto la guerra per andare poi a conquistare gli Stati Uniti, iniziando da New York? C'è stata un po' di polemica quando il libro è stato pubblicato riguardo al fatto se fosse un romanzo oppure un racconto lungo. Ad alcuni sembrò che le pagine erano poche, ma già l'aveva detto Baudelaire, basta solo un miglio marino per spiegare cosa sia l'orizzonte. Romanzo, novella, novello, racconto lungo, non è molto importante. Forse non è che un poema scritto in prosa, una farsa carnevalesca, una favola che inizia con un comico e finisce per essere un'allegoria politica. Hitler e Chaplin si ritrovano in un vicolo, alla fine di una notte di ubriacatura, dopo aver trascorso una notte in un ballo di travestimenti. Ma il filo d'erba è, forse, soprattutto, una rivendicazione della libertà individuale, la libertà della scrittura. La libertà di poter scegliere un idioma, una lingua, l'euskera nel mio caso, e poterlo sagomare a modo tuo per poter scrivere su qualsiasi argomento. Non so se ci ci sarà bisogno di tradurre Arcaiz. Tu vuoi parlare in euskera o in spagnolo? Puoi parlare in spagnolo, si crede. Sì. Non so, io penso che è meglio comunque. È meglio tradurre? Avrò in castellano, intanto se lo avrò. Te traduco también en euskera. Bueno, grazie a tutti, buonanotte. Grazie a te. Grazie a Viviana, Alex. Realmente ya lo ha contado todo Viviana, ¿no? Este lo ha raccontato tutto. Es un libro que escribí el 2005. En París tiene, bueno, ella ha explicado la parte, el libro tiene dos hilos conductores, por así decirlo. El libro ha due fili conductori. Una parte es la que más ruidos de sables despierta, la que ves, la más espectacular. Una, la más espectacular, es la que más rumores de spade ha. Relativa a la ucronía, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la guerra en Europa y luego se hubiese dirigido hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, a conquistar Estados Unidos? Cioè, in cui c'è questa ucronia, che cosa sarebbe successo se Hitler avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale e poi si fosse spostato agli Stati Uniti a conquistare gli Stati Uniti? In parallela a esa historia, hay otra historia anterior de otro viaje, otra singladura en barco, algunos años antes. Parallelamente c'è un'altra storia di un altro viaggio fatto alcuni anni prima. Che esa sì che è una storia reale di come la Statua della Libertà despedazata in cajas viaja desde Francia hasta il puerto di Nueva York, dove luego è montata e regalata por los franceses a los Estados Unidos. È una storia vera in cui si racconta come la storia vera è qui. La Statua della Libertà è stata fatta a Parigi, in Francia, e poi è stata portata in scatole negli Stati Uniti, dove poi è stata regalata al popolo francese alla città di New York. E la licenza che io mi tomo è che nell'interior della parte della corona della Statua della Libertà viaja un uomo, che eso sì che è ficzione, al che io chiamo il pequeño hombre. E lì c'è la ficzione, che è quella licenza che lui si prende come scrittore, in cui all'interno della corona a punte della Statua della Libertà viaggia un uomo che lui chiama il piccolo uomo. E questo è un minero, un ex minero che luego trabajò nel puerto come estibador, però trabajaba come minero. E questo personaggio sta basato in un tío mio che realmente fu minero in Bélgica e mi impressionò molto la storia che mi contò él. Porque se sentía muy mal, porque durante muchos años trabajó en la mina, pero él no extraía ningún mineral. O sea, su trabajo se limitaba a rellenar los huecos de los que otros antes habían extraído el mineral. Esto se basa en una historia que había raccontato uno zio suo, que era stato minatore in Belgio, e le raccontava come lui in realtà era stato minatore, ma non faceva il vero e proprio minatore. Lavorava nella miniera riempiendo dei buchi che altri minatori avevano riempito in questi carrelli che poi venivano portati su. Su frustrazione una vez jubilato era non aver realizzato nunca una labor de provecho. Decía, yo nunca, il trabajo che hacía era un trabajo de relleno, nunca hice nada productivo. Cioè, quindi non avevo fatto un vero lavoro produttivo, ma di riempimento, insomma, questa era la sua frustrazione. Y todos sus compañeros siempre le consolaban diciendo, no, pero Cayetano, él se llamaba Cayetano, Cayetano, pero tu trabajo es muy importante porque date cuenta de que gracias a que tú vas rellenando las galerías que van quedando vacías, la mina no se viene abajo, tu trabajo es tan importante como el nuestro, pero él no. Allora lui diceva, no, guarda che è molto importante perché non è che riempiva, come ho detto prima, i carrelli, ma riempiva le miniere che già erano state svuotate. Allora i minatori dicevano, guarda Cayetano, che era il tuo nome, guarda che il tuo lavoro era molto importante, in realtà tu stavi facendo sì che la miniera non cadesse, perché si doveva riempire comunque, perché sennò sarebbe caduto tutto. Y esos son los impulsos que me llevan a escribir realmente en muy poco tiempo este libro, que ya, bueno, ya he hablado demasiado porque es un libro muy, muy pequeñito, casi lo voy a contar entero, si no. Dice, cioè, questo un po' tutto, perché il libro è molto piccolo e forse già ho parlato troppo, perché in realtà è così piccolo che, insomma, che già ha raccontato tutto. No, quizá leemos un trozo e luego abrimos turno de preguntas. No? Leggiamo una parte e poi continuiamo a parlare. È arrivato anche Dario, che è, insomma. Passeggiamo prima una parte, un pezzettino piccolo in uschera per sentire un po' il suono della lingua e poi io lo leggo un po' di più in italiano. Itxaso zabala. Zenbat aldiz ezote duen amestu ba, itxas zabalura zeharkatu eta menpean hartzen. Ontzidia bederatzi guda ontziz dago osatua. Irunakako hiru lerrotan doaz. Gizon txikia aurreneko lerroko hiru barkuetan erdikoan doa eta hortzak estuturik ditu. Une batez bere hau itxiaren indarraz aitzinarazten duela ontzidi osoa iruditu zaio. Matrailezurra apur bat ezkerretara mugituzkero, hiru ontziak ere zentzu berean mugituko direla itsasoan. Gauzak gauzen barruan eta mundu txikiak mundu handiagoen baitan soka finez lotuta daudela iruditzen zaio sarri. Gutxitan egiten du barre eta egiten duenean masailek ezabatu egiten dizkiote aurpegitik begiak bi marra soil bihurtzeraino. Baina matrailezurrak estuturik dituenean orduan ez. Orduan horizonte guztia hartzen dute gizon txikiaren begiek. Ez gaitezen alferrikako korapilo eta asmakizunetan gal. Hasieratik jakitea komeni da gizon txiki honek Adolf du izena. Al largo. Quante volte aveva sognato di solcare e dominare quelle acque profonde? La flotta è composta da 9 navi da guerra. Le imbarcazioni sono allineate in 3 file di 3. Il piccolo uomo si trova in prima fila, in posizione centrale, scortato ai fianchi da altre 2 navi. Tiene la bocca chiusa e stringe i denti. Per un attimo gli sembra che sia la forza della sua bocca serrata a far avanzare la flotta e che, se muovesse la mandibola leggermente a sinistra, l'intera flotta virerebbe in quella direzione. Il piccolo uomo sovente immagina oggetti all'interno di altri oggetti e piccoli mondi legati con corde sottili dentro mondi un po' più grandi. Raramente sorride e quando lo fa le guance gli nascondono gli occhi, trasformati in 2 fessure. Ma quando tiene la mandibola stretta, allora no. Allora gli occhi del piccolo uomo colgono senza difficoltà l'intero orizzonte. È inutile perdersi in indovinelli e superflui giri di parole. È meglio dirlo subito. Il piccolo uomo si chiama Adolf. Adolf si chiede quale sia stata la più difficile delle imprese realizzate durante la guerra. Forse la vittoria sul governo di Vichy, il fatto che un serpente avesse avvelenato mortalmente Charles de Gaulle alla vigilia della riunione in Algeria era stata una casualità del destino. Loro non avevano avuto niente a che vedere con quella vicenda. La fortuna era stata dalla loro parte, nient'altro. Qual era stata allora l'impresa che gli era costata lo sforzo maggiore? Controllare le ansie di potere del generale Pétain, che pretendeva di governare l'intera Francia, fargli accettare rassegnato un comando onorifico e vuoto di potere dopo avergli fatto capire che la Francia era terra tedesca? Far saltare in aria il bunker al centro di Londra dove Churchill e le sue segretarie redigevano rapporti con macchine da scrivere dai tasti imbottiti per non fare rumore? Seminare di mine la spiaggia della Normandia prima del 6 giugno del 1944? Infiltrare delle talpe nella resistenza francese e mandare all'aria i piani dei ribelli? Superare lo scacco rappresentato dal doversi ritirare dalla Russia per preparare un secondo attacco? No, tutto ciò non si era rivelato così difficile in fin dei conti. Ci sono cose che si devono fare solo per calcolo, dare per persi alcuni obiettivi in modo da poter puntare con vigore su altri di maggior valore. Per quanto ammetterlo potesse sembrare un sarcasmo, il commediante era stato l'osso più duro. Sì, il commediante li aveva messi in difficoltà. La prima del film, nel 1940, aveva messo le ali agli alleati e la cosa peggiore era che gli inglesi avevano continuato a ridere alle sue spalle. Ma anche per loro erano finiti i tempi delle risate facili. Sarebbe stato difficile infatti burlarsi di lui nei campi di concentramento di Wimbledon e di Sheffield. Quello stupido commediante invece gli aveva tolto il sonno, più di una notte. Ricorda perfettamente il giorno in cui gli era stata recapitata in ufficio da Goebbels una copia del film. Fatta sistemare la bobina nel proiettore aveva ordinato che lo lasciassero solo. È sicuro di voler rimanere solo, mein Führer? Adolf aveva fatto un gesto tassativo con la mano, fuori. Sapeva che i suoi subordinati avevano già visto il film alle sue spalle, proiettandolo nel magazzino dei viveri su una pila di sacchi di farina. Sicuramente era stato un turno notturno di guardia più divertente di quelli passati a sbirciare riviste pornografiche americane, lettura del resto assolutamente proibita. Lui era al corrente di tutto, ma Adolf era costretto a mandar giù le umiliazioni in solitudine. Benché i suoi uomini avessero visto il film, nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di nominare quella bobina di celluloide in sua presenza. Per precauzione si era chiuso a chiave dentro l'ufficio, anche se nemmeno Eva sarebbe entrata senza bussare. Solo quando era stato completamente al buio aveva acceso il proiettore. Gli aveva provocato il vomito vedere quel repellente pagliaccio ripetere continuamente parole come Wiener Schnitzel o Kraut. Come si può avere il coraggio di calunniare in questo modo la lingua tedesca? Sì, in fin dei conti, l'esperienza più dolorosa era stata la faccenda del commediante. Se un giorno si dovesse veramente valutare l'influenza della vanità e delle vendette personali degli individui che hanno comandato eserciti e guidato masse e intere nazioni, più di uno si sorprenderebbe del peso che hanno avuto le umiliazioni personali nel destino dei popoli. L'impresa più difficile era stata, senza dubbio, neutralizzare il commediante. Ma alla fine ce l'avevano fatta. E adesso stavano attraversando l'Atlantico. Sente il ronzio delle eliche degli Junker che decollano e atterrano dalle portaerei. Stuckak, Messerschmitt, Focke-Wulf, aerei tedeschi, gli inarrestabili carri armati Tiger fabbricati da Krupp pronti, le bombe appena uscite dai forni della Farben Industrie, comodamente adagiate nel ventre degli aerei. Per un attimo gli sembra di sentire i venti di guerra di una volta, musica per le sue orecchie. Gli uomini sono pronti per la battaglia e il piccolo uomo è orgoglioso di loro. Prenderà tutti alla sprovvista. Questa è la sua intenzione, impossessarsi degli oggetti nascosti all'interno di altri oggetti, impadronirsi dei piccoli mondi dentro altri mondi più grandi, controllare e muovere i fili che uniscono mondo e oggetti, diventare colui che tiene le briglie. Adolf ha fatto chiamare i suoi luogotenenti nella sala delle strategie. Il teatro delle operazioni è costituito da una cartina aperta sull'enorme tavolo. Tutti i territori sotto dominio nazista sono delimitati da un filo rosso annodato attorno a degli spilli infilzati sulla cartina. In un angolo più piccola una piantina con tutti gli accessi e le strade dell'isola di Manhattan. Si tratta di prendere la grande mela. Una volta penetrati nella città dei grattacieli, gli americani non oseranno bombardare i loro simboli e la loro gente. Sarà facile. Contano anche sulle persone del luogo, perché i sostenitori nordamericani del Reich hanno riunito più di 20.000 simpatizzanti nel Madison Square Garden. Il commediante, il maledetto commediante, quello sì era stato doloroso. Quello che lei ci chiede sarà molto difficile da realizzare, mein Führer. Abbiamo invaso interi paesi, questa volta si tratta di un'infima persona, non è nemmeno questo, una mezza persona. Ma non si tratta di una persona qualsiasi. Non mi importa come, voglio che me lo portiate qui, non ho altro da dire. Avremo bisogno di tempo. Prendetevi tutto il tempo che volete. Non dimenticate che adesso lo fabbrichiamo noi. Cosa fabbrichiamo, mai? Benché il mare sia calmo, c'è un grande affare in coperta. Tutti si preparano per un eventuale attacco aereo. Rientra nei calcoli del piccolo uomo che, quando si avvicineranno alle coste americane, invieranno contro di loro i caccia da guerra nel tentativo disperato di evitare lo sbarco. Si assicura che i preparativi procedano e si ritira nella sua cabina a riposare. Mette un disco di Wagner nel grammofono, ma la qualità del suono non è come vorrebbe. Scheisse, un'orchestra, avrei dovuto portare un'orchestra. Adolf attraversa con passo rapido il corridoio che collega la sua cabina a quelle dei suoi logotipi. Scende 3 scalini, poi altri 3. Entra senza bussare. Erditer si sta facendo la barba e si spaventa nel trovarselo lì. È la prima volta che il suo Führer lo vede senza l'uniforme, perché gli uniformi sono come i paesi, mantelli che ci proteggono. Ma il Führer, qualche imprevisto? Un'orchestra. Lo dice come se una temibile piovra gigante fosse emersa dalle profondità del mare e agganciata con le sue ventose alla chiglia della nave con ogni tentacolo suonasse uno strumento musicale impedendo alla nave di avanzare. Un'orchestra, mein Führer? Proprio così, voglio un'orchestra, non possiamo arrivare in questo modo, senza musica. La musica domestica le bestie e rende più umani gli uomini. Interroga i soldati, ci deve essere qualcuno che sa suonare qualche strumento. Ma stiamo per arrivare, mein Führer. I cacciabombardieri americani potrebbero apparire da un momento all'altro. Il piccolo uomo ritorna nella sua cabina e il commediante a occupare la sua mente, quel ripugnante Inkel che giocava con la sfera del mondo, il barbiere del ghetto, gemello di Inkel che alla fine del film prendeva il suo posto. Sarebbe molto più facile abbatterlo con un fucile di precisione. No, quante volte devo dirvi che voglio che lo portiate qui davanti a me? A cosa serve la Gestapo? Non era stato facile, ma alla fine avevano preso lo schifoso impostore, il commediante Saputello. E adesso, mein Führer, adesso dobbiamo aspettare, che soffra un po'. Desidera che venga applicato a detenuto il codice Marco Polo? Marco Polo, anche lui era stato un viaggiatore. Anche lui si era imbarcato, molto prima che lo facesse il piccolo uomo. Ma era diverso, non c'erano dubbi. Marco Polo raccoglieva cose piccole, seta, frutti esotici, fiori e spezie. Si accontentava di poco, di vagare da una parte all'altra. Si accontentava di scoprire abitudini di luoghi lontani e ascoltare lingue originali. Il piccolo uomo, invece, ama l'ordine. Stabilirsi e non vagare, portare a termine le cose iniziate. Gli spilli infilzati sui paesi che ha conquistato, i fili rossi che uniscono le capocchie di quegli spilli, significano qualcosa per lui. Un ordine, un modo di procedere, una chiara disposizione. Il piccolo uomo non sopporta di prendere in mano un giornale spiegazzato, gli provoca ribrezzo. L'ordine e l'igiene attorno a lui sono imprescindibili, solo così può mantenere l'equilibrio mentale. Qualcuno bussa alla porta, due volte, così come è ordinato di fare. Due volte, non troppo forte da infastidire chi è dentro, ma neanche con l'indecisione di un colpo troppo leggero che svela una personalità timida e vulnerabile. Esistono una cadenza e un'intensità giuste per bussare la porta. Uno sforzo controllato ma senza eccessiva timidezza. Così si deve bussare la porta. In fin dei conti non chiede molto. Mein Führer, Dieter chiede che tipo di orchestra desidera. Wagner, un'orchestra che suoni Wagner. Buonasera, per me, io sono Dario Coppola, per me è un piacere presentare a voi Archives e il suo libro che ho avuto la grande fortuna di leggere e mi è stato dato come dono ed è stato un grandissimo piacere, una grandissima scoperta pagina dopo pagina. Io non so, tu riesci? Va benissimo. Allora, la cosa più complessa di darvi delle idee su questo testo è riuscire a presentarvi la grande profondità e la bravura, la leggerezza con cui Archives ha creato il testo senza svelarvi dei segreti e una parte del piacere imprescindibile che voi potreste avere dalla scoperta appunto di come lui ha pensato poi lo svolgimento della trama. Il test della storia, forse alcuni di voi già lo sanno, è una storia che inizialmente è parallela, prevede un personaggio, un ex minatore francese, Olivier, che cerca la propria soddisfazione, il proprio completamento, attraverso delle azioni che possano dargli la consistenza del bene che lui produce per il mondo, per i suoi simili. Quindi abbandona il lavoro in miniera fondamentale, che è quello del riempimento dei buchi, dei corridoi che sono ormai stati abbandonati e che serve per evitare il crollo sugli strati sottostanti, ma nonostante sia importante, come lavoro sente di avere una forte mancanza e di non riuscire ad esprimere se stesso, e scopre, lavorando al porto, la possibilità di ottenere, di seguire questo suo sogno cercando una libertà che non sarà solo una libertà fisica, perché è libero in quegli anni in Francia, ma che sarà una ricerca anche profonda e spirituale, come vedremo poi più avanti nel testo. E metaforicamente, simbolicamente, riesce a ottenere questa libertà viaggiando nella libertà, ovvero imbarcandosi in quel veliero a motore che porterà dalla Francia agli Stati Uniti la Statua della Libertà. E nel ventre della nave nasce un'osmosi, una fusione tra lui e alcune delle parti della libertà stessa. L'altro personaggio che vi è stato presentato è quello del commediante. È molto bello e interessante, e poi vorrei, quando sarà il momento, fare alcune domande su questo, sull'uso parsimonioso che Archives fa dei nomi, per cui Olivier è Olivier, ma Chaplin è il commediante e e Adolf è il piccolo uomo. C'è una relazione tra questi tre che secondo me, tu sei qui, quindi io posso dire cose e tu smentiscimi, che si instaura tra questi tre personaggi. Sono tre esponenti della libertà, ognuno a modo proprio, una libertà che per tutto il libro è imprescindibilmente legata al linguaggio, alla capacità di espressione, e il linguaggio e la parola a loro volta si legano, e qui sono reminiscenze antichissime della nostra cultura anche europea, alla visione, alla luce, tant'è che a un certo punto la parola e la libertà con essa assumono, nella capacità che ha il commediante, rifugiatosi a Manhattan, di scrivere un nuovo testo, di avere sia una corporeità fisica come la luce, come un fotone, sia una leggerezza che è in grado di potersi espandere, fluire nel commediante e da esso riespandersi attraverso il testo in quella che è la cittadina, perché come tu dici nel testo, il commediante probabilmente non fa altro che raccogliere, mietere quelli che sono i frutti della luce, quindi di ciò che vede, di ciò che sta accadendo nella città occupata, e come un mezzo, come un canale, trasportarlo nel testo. Un testo che noi non conosceremo, un testo che c'è e di cui lui ci fa immaginare tanto. Perché la bravura, un dato fondamentale di questo, del libro, del filo d'erba, è l'abilità con cui ogni parola sia dosata, ogni scena, ogni momento sia descritto nella sua essenzialità, ma un'essenzialità che non ci fa mai sentire la mancanza di qualche altra cosa. Le scene, l'andamento, è soprattutto lieve, se volessimo citare così Calvino, leggero, lieve, e questo permette al libro di trasportarci, di entrare in sintonia con la nostra parte più sensibile, e in alcuni momenti lui è abilissimo a giocare, secondo me, su questo, perché attraverso questa leggerezza dell'espressione di questa parola appena accennata ci fa trovare all'improvviso in scene estremamente crude, che sono quelle che descrive, scene molto forti, come possono avvenire in una città occupata. E questa abilità ci permette di viverle con le scene raccontate, di viverle con un'intensità ancora più forte. In altri casi, invece, questa abilità dello scivolamento, questa leggerezza della parola, che però non è insignificanza, sono sempre parole molto cariche, molto forti, entra in contrasto, secondo me, con alcune delle immagini che tu ci trasmetti. Ma questo contrasto non è uno scontro, è come un rispecchiarsi, è come un guardarsi, la leggerezza dell'espressione rispetto alla forza negativa, alcune volte, delle immagini. E in quel caso entrambe, la tua lingua, la tua parola e quello che invece l'azione che è narrata, assumono forza reciproca da questo guardarsi, da questo non andare d'accordo, ma è un non andare d'accordo che è dialogo. I personaggi sono, come stavo accennando, secondo me, tre esponenti del diverso modo di vivere la parola e con essa la libertà, perché questo testo è un canto alla libertà. E Olivier, il minatore, è una ricerca della libertà personale, individuale, una sorta di ricerca di emancipazione. Quella del commediante è, finché non è catturato, finché non gli viene applicato il codice Marco Polo, è di chi gode della libertà perché ha vissuto in un mondo che gli ha permesso fino a quel momento di esprimerla sempre pienamente, una libertà di parola soprattutto. Hitler, Adolf, scusate, il piccolo uomo, è invece colui che crea la cosa che Olivier detesta all'inizio del libro, i buchi, ovvero crea delle falle all'interno della libertà e dell'arte. Dovunque va, crea una mancanza, cioè crea una negazione di arte e di libertà. E se, paradossalmente, ma neanche tanto, il nemico più aspro, più difficile che ha avuto da sottomettere e con cui continuerà ad arrovellarsi continuamente la mente, è il commediante, è proprio perché è l'unica voce che non è riuscito a spegnere. La parola del piccolo uomo più volte è la propaganda, viene citata spesso anche letteralmente, e viene citata come lo strumento che ha permesso il raggiungimento di obiettivi molto importanti. Quindi il piccolo uomo si manifesta a noi come la contemporanea nemesi degli altri due personaggi, perché è sempre la parola, ma è la parola nel suo aspetto più negativo. È la parola manipolata, ma non involontariamente, è la parola che viene manipolata, e quindi con essa la libertà, nella forma più astuta e subdola per privare gli ascoltatori della loro libertà, della loro parola, perché attraverso la propaganda, come succede anche poi nel testo, i nazisti cercano di far sentire alla popolazione della città occupata la mancanza di quella stessa cosa che loro stessi hanno appena tolto. È una cosa materiale, banale, di cui privano la popolazione, però sono loro. E l'unico palazzo in cui questa mancanza non c'è è proprio quello in cui viene prodotta la propaganda. Questi personaggi si muovono, soprattutto in una parte iniziale del libro, in momenti storici diversi. Il testo viene spesso definito una ucronia, ovvero un testo che si compone di storie che si muovono su momenti temporali, alle volte anche spaziali, diversi. È qualcosa, e secondo me tantissimi scrittori di fantascienza glielo invidiano, un'abilità molto grande quella che hai, perché riesci a dare una sensazione di passaggio tra i mondi e di contatto tra i mondi della nostra realtà, del passato e del presente, che il narratore, che noi abbiamo qui, è riuscito ad avere la fortuna di poter ammirare attraverso uno dei tanti piccoli spiragli, luci, profili illuminati di cui si parla nel libro. Lui è riuscito, secondo me, a penetrare uno di questi, a vedere questi legami e a narrarceli. E poi... Ok, le tue controproposte. E poi, guarda, io ho sentito fortissimo un amore per la parola, ma la parola scritta. Cioè, ci sono alcuni passaggi in cui Olivier o il commediante sono, o potrebbero essere, delle manifestazioni di alcuni tuoi sentimenti, passioni di scrittore. Non so se forse sapete che questo testo nasce inaspettato, gliel'avete detto? Sì, ok, nasce inaspettato sovrapponendosi a un altro testo che invece era stato pensato. Quindi tu parli della potenza dell'arte, dell'opera d'arte non finita. Sono citate, essendo una storia alternativa, opere d'arte molto famose, che tutti voi potreste conoscere come Guernica di Picasso o altre, che sono state interrotte in realtà dalla vincita dei nazisti in Europa. E lui ci dice quanto comunque siano fondamentali le opere non finite, anche se poi nel testo sono gli umili, o comunque quelli che un tempo non erano umili ma lo sono diventati a causa delle circostanze, come il commediante o la popolazione della città, a completare l'opera Guernica, ad esempio, con la loro sofferenza, con l'atteggiamento che il loro corpo martoriato prende. Tu poni molto spesso l'attenzione sul collo come zona fisica del corpo, non solo di Olivier, che ha subito diciamo un processo di ingobbimento a causa del lavoro, secondo i suoi malevoli compagni di lavoro, per il suo viaggio nel ventre della statua, secondo lui. Ci parli spesso di come l'ergersi nella sofferenza del commediante durante il codice Marco Polo o in altri momenti di estrema sofferenza nel testo, ricordi, se voi avete presente anche solo vagamente il quadro di Picasso, lo completi, ricordi questa figura. C'è una figura in Guernica che è la figura di un uomo che estende il collo al massimo grado, protendendo la bocca nella disperazione e nella sofferenza con un grido muto. Quindi qui si ritorna sempre agli umili e a come gli umili possano esprimere sia quel bisogno che c'è nella nostra società o in qualunque altra società di libertà e di espressione, ma come lo possano essere naturalmente in questo testo. È un testo, secondo me, che ci parla molto profondamente, come vi ho già ripetuto tante volte, di questa necessità di libertà, ma di come l'interprete di questa libertà, o quantomeno anche il propugnatore, il difensore, se volete, debba essere l'artista. L'artista, dualisticamente, unendosi alla popolazione più semplice, più umile, deve ergersi a barriera o a difensore o a propagatore della libertà, che è fondamentalmente una libertà di parola, di espressione. Quindi, oltre alla storia in sé, che è veramente molto godibile, molto piacevole, ai nostri personaggi che abbiamo incontrato, ti volevo domandare, la libertà e il tuo amore per la parola possono essere il protagonista di questo testo? In gran parte sì. Claro, yo me daba cuenta de que estaba escribiendo... Hay gente que me reprochó al leer el libro, esperaba un libro de muchísima acción, ¿no? Un libro de... Me dice, pero tú no hablas de los submarinos de los nazis. ¿Cómo van a conquistar Nueva York sin submarinos? Y tú no hablas de los submarinos. Claro, esto era una lectura de un historiador, ¿no? Me decía, tú no cuentas la realidad de lo que hubiese sido un plan de acción en Estados Unidos real, ¿no? C'è molta gente che mi chiedeva, ma come tu non hai raccontato effettivamente questa invasione attraverso, che ne so, i sottomarini, come sono arrivati là, tutta questa potenza, non hai raccontato questo, e quindi come si fa a capire questa invasione? E questa non era la mia intenzione, già si hanno scritto novelle, ¿no? Come Philip Roth scrisse La conjura contro America, in fin, hay más sucronías en ese sentido. A mí no me interesaba eso tanto, sino más bien, como ha dicho Dario, toda esta historia casi bufonesca o de farsa en la que dos personajes disfrazados, uno de Charlie Chaplin y otro de Hitler, se encuentran, vamos a decirlo así, después de pasar una noche loca en un callejón los dos solos, después de a me non interesaba quello, interesaba piuttosto un'altra cosa, cioè di mettere due personaggi improponibili, però che si dovessero incontrare dopo una notte di alcol, di ubriacatezza, di essere ubriacati e di aver passato una notte in una festa di ballo, così, insomma. Y todo eso en un tono poético, ¿no? Que él también ha citado de ligereza, sí, la ligereza, pero no sé quién decía, Paul Eluard creo que decía que hay que ser ligero como los pájaros, pero no como las plumas, ¿no? Bisogna essere leggeri come gli uccelli, ma non come le piume, insomma, lui in questo senso la leggerezza la intendeva. Y esa ligereza poética te permite contar en un momento dado pequeñas pinceladas muy crueles, muy fuertes, ¿no? E quella leggerezza ti permette di fare delle pintelada, scusate, delle pennellate, insomma, cruenti, crude. Y a medida que iba escribiendo el libro yo me daba cuenta de que ya no sabía cómo terminarlo, ¿no? E mi rendevo conto che non sapevo come finirlo. Y me di cuenta de que poco a poco el comediante, yo me iba convirtiendo en el comediante. E io piano piano il comediante, cioè io mi stavo convertendo in comediante. Por aquel entonces vivía en una guardilla pequeñísima de París y me daba cuenta de que, bueno, las casas pequeñas tienen la ventaja de que tú no puedes escapar de tu trabajo está ahí, te despiertas y te recuerda constantemente, estoy aquí y no me has acabado. Io vivevo in una piccola guardiglia, in una soffitta a Parigi, e la cosa buona che hanno le case piccole è il fatto che ti ricordano sempre che stai lì e che non puoi scappare, che quindi appena ti svegli dici ecco il lavoro sta qua, insomma non è che devi andare altrove. Finalmente es mediante la escritura que el comediante, hay una parte muy autobiográfica en la que el comediante escribe mientras con una mano cocina, porque vive en un sitio cada vez más pequeño, ¿no? El escritor cada vez vive en un sitio más pequeño, más pequeño, más pequeño. Casi, casi prácticamente la guardilla en la que vives transpira contigo, ¿no? Es una especie de segunda piel. Y ese es el final o la vía que encontré para convertirme yo mismo en el comediante que escribe una obra, algo, no se sabe qué. Cioè, per convertirmi io allora nel comediante, io che vivevo in questo posto molto piccolo in cui è tutto un tratto, cioè sempre di più, io sto cucinando con una mano ma sto scrivendo con un'altra, e la soffitta diventa una specie di seconda pelle, e quella è stata un po' la via che è riuscito a trovare per essere poi lui, quel comediante di cui stavo parlando. E da lì che effettivamente finalmente lo che parece una novela o un cuento acaba siendo un poema che tiene algo de inacabado, que creo que es lo inacabado es aquello por donde el texto o la obra de arte respira, ¿no? Aquello que está totalmente terminado, redondo, está muy bien, pero le falta una espita por la que respire, y a mí me gusta que respire de alguna parte, ¿no? E gli piace che le cose, insomma, possano respirare, quindi per questo la cosa buona delle cose non finite, che comunque, siccome non sono finite, riescono a respirare ancora, piuttosto che quelle completamente finite, dove sembra che insomma non c'è via d'uscita. Insomma. Io non so se c'è qualche. Se qualcuno vuole fare una domanda. Io ne ho ancora, se vuole. Se qualcuno. Bueno, ha hablado también de los nombres de los personajes, ¿no? Es una parte interesante. I nomi dei personaggi interessanti, come ha parlato Dario. Que claro, no es lo mismo decir Hitler entró por la puerta que decir el pequeño hombre entró por la puerta, ¿no? Cioè, non è la stessa cosa dire Hitler entrato alla porta che il piccolo uomo entrato alla porta. Todos sabemos que el pequeño hombre es Hitler, pero al privarle de su nombre le privamos también de fuerza, le estamos achicando un poquito, ¿no? Haciendo que sea de otra forma, y eso es, creo que tiene, en el libro tiene bastante peso el hecho de que Hitler sea el pequeño hombre y el minero se llame Olivier Legrand, ¿no? Entonces hay dice, allora, pequeñas venganzas de escritor. Il minatore si chiama Olivier Legrand e Hitler è il piccolo uomo, dice noi sappiamo che Hitler è il piccolo uomo, ma comunque quando lo chiamiamo il piccolo uomo è chiaro che gli stiamo levando, è diverso, gli sta levando una certa forza. Podemos arañar el interior de los personajes y vaciarlos si los privamos de sus nombres, ¿no? O al revés, podemos darles empaque. Possiamo grattare i nomi, insomma. Sabo che. Bueno, la labor del escritor es esa, en el fondo, y que las palabras pasen a significar lo que realmente significa, ¿no? A veces las palabras se ensucian, hay palabras que de tanto usar democracia, sí, de tanto usarlas pierden su significado totalmente, ¿no? Parte de la labor del escritor puede ser desvelarlo o conseguir que estas palabras vuelvan a significar lo que realmente significaron, ¿no? Ahí. Ci sono molte parole che perdono significanza, significato, perché con l'uso e l'abuso, insomma, come democrazia, ma tante altre parole, quindi forse una delle cose che potrebbe o dovrebbe fare lo scrittore è proprio quello di rimettere la parola e ridare alla parola il significato. Nel País Vasco si habla ora molto di convivenza e di rispetto, no? Però io mi do cuenta di che il rispetto, tolleranza e desprezio già non significano lo che significavano antes. Es decir, quando alguien te dice io te respeto, en el fondo lo que te está diciendo es yo te tolero. Cuando alguien te dice yo te tolero, te está diciendo me eres indiferente. Y cuando alguien te dice me eres indiferente, lo que en realidad quiere decirte es que te desprecia. Pues claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se quiere decir y lo que la gente entiende. Y esa es la labor del escritor, decirlo. Cioè, nei Paesi Baschi si sta parlando molto di tolleranza, di convivenza, così. Però secondo lui, insomma, si stanno un po'. confondendo le cose, cioè quando si dice io ti tollero, in realtà no, prima io rispetto io e ti, tollero. Io ti rispetto, in realtà vuole dire io ti tollero. Quando dice io ti tollero, in realtà mi sei indifferente. Quando in realtà ti dice, quando ti dice mi sei indifferente, te disprezzo. In realtà significa ti disprezzo. Bravo. Intanto c'è Maria Teresa Torino, che è una delle due traduttrici del libro, che ci ha raggiunto in assolutamente. Siamo un po' in chiusura, nel senso che è già passata l'ora. Non so se c'è, magari vogliamo fare un'altra piccola, se c'è qualche cosa che, insomma, qualche piccola curiosità che ancora. No, una curiosità che ci può togliere Arcaiz. Allora, nel testo compare spessissimo come soggetto muto, solo in un'occasione, poi parlante, la macchina da scrivere. E dietro io ho sentito un grande amore da parte tua, forse per questo oggetto, ma anche per una parola che non sia scomparsa dopo che è stata costruita, e quindi anche la capacità della macchina da scrivere di dare subito una tangibilità, una materialità a ciò che tu scrivi. Quindi tu usi computer o la macchina da scrivere? Computer. No, pero es cierto, mira, el otro día, bueno, es cierto que para mí la máquina de escribir sigue siendo un fetiche. Yo aprendí a escribir con la máquina de escribir, luego la abandoné por el computer, pero soy lo suficientemente viejo como para haber aprendido a escribir con la Olivetti, que era la primera máquina de escribir, ¿no? Y con la máquina de escribir, el otro día una amiga que es profesora en un instituto me contaba una anécdota de gente joven que les puso una película en clase, gente de 14, 15 años, pues nacidos en 1998, algo así. Y cuando apareció una máquina de escribir en la película, uno de los chicos dijo: ¡Hala! Mi viejo tiene un teclado como ese. Un teclado, claro, era para él era algo, como realmente te das cuenta de que es, antiquísimo, ¿no? Y sin embargo, la máquina de escribir sí que tenía ese ruido, ese peso, que ahora cuando escribes no sientes, ¿no? Ahora sientes otras cosas. Yo con el computer me siento como con un órgano Hammond B3, y el ruido me ayuda, ¿no? Pero antes era diferente, antes era más físico, ¿no? Es verdad que quizá hemos perdido un poco de tensión, ¿no? Luego estuvo la máquina de escribir eléctrica, que también era interesante porque yo escribía poemas siempre con la máquina de escribir eléctrica, solo poemas. Y era porque la máquina de escribir eléctrica permitía ir escribiendo línea a línea, ¿no? Esta pequeña pantallita en la que veías una línea y la línea la podías modificar, podías cambiar cosas, pero solo en esa línea. Y una vez que decías, está bien, fijabas esa línea para siempre y pasabas a la siguiente línea. Y esto le daba al poema un ritmo especial, ¿no? Y a veces la máquina puede ayudar o condicionar. Penso che si capisce, no? Si capisce, sì. Sì, se qualcuno... Però ora puoi scrivere per la notte. Gran ventaja. Antes a las 10:30 tenías que dejarlo. Eso sí que es verdad, sí. Io sono stato alle parole, sono contenta di vedere Arcaiz che è venuto in Italia. Abbiamo presentato il libro che è stato premiato, che è stato la casa editrice, la Ciambra Doc. L'abbiamo premiato ad Ostana, che è un piccolo centro occitano, dove si parla ancora l'occitano, quindi sì, in Italia le lingue minoritarie sono abbastanza, ma non sono forti come l'euskera, quindi è stato preso come esempio questa lingua bellissima ed è stata premiata. La traduzione è stata fatta infatti dall'euskera, dal basco, e direttamente all'italiano. È stato un lavoro fatto con Roberta Gozzi, che è la grande traduttrice dal basco, e niente, quindi è stato un lavoro molto interessante. La bellezza delle parole sono proprio quelle basche, effettivamente, che rendono, è stato difficile curarle e renderle allo stesso modo all'italiano, però è stato un bel lavoro, veramente, è un bel libro, tutto leggibile. Se ci sono domande. Avete detto qualcosa nella casa editrice? Sì, sì. Avete fatto un applauso a questi ragazzi visionari che hanno deciso di costruire in un momento di collasso del mondo dell'editoria una casa, un sogno, una casa editrice di questo tipo, così lanciata verso l'utopia del trasportare a noi la conoscenza di letterature che altrimenti, e di testi meravigliosi che altrimenti non avrebbero mai trovato sbocco. L'avete fatto? Sì, le facciamo una piccola lettura e poi chiudiamo con la canzone. Volevo soltanto dire che, visto che le poste non sono ancora arrivati i libri, però se quelle poche copie che avevamo sono già finite, potete magari lasciare un numero di telefono qua da Giufà, così poi aspettando arriveranno nei prossimi giorni e vi mandiamo un sms e le potete venire a prendere qui se le volete comprare. Non lo vedo aperto qua. No, munduak geruzatan eraikitzen dira ordea. Norbera bere geruzan bizi ohi da. Zaila da gaineko eta azpiko geruzetara iristea. Batzuetan gertatzen da hala ere. Zenbaitetan elur geruza baten barruan harrapatutako norbaitek aterki baten punta zorrozarekin zulatzen du goiko geruza, eta mundu estraino batean agertzen da. Bere harridurarako, eta baita aterkiaren jabea erreskatatzen duten haien harridurarako ere. Geruzatan eraikitzen dira gauzak eta munduak, eta horregatik badaude gizon txikiak ez dakizkien hainbat gauza. Il mondo è fatto a strati. Ognuno vive nel suo. È difficile accedere a uno strato superiore o inferiore a quello a cui si appartiene. Tuttavia a volte succede. Qualcuno si trova intrappolato sotto una cappa di neve e riesce a bucare con la punta dell'ombrello lo strato superiore, affacciandosi a un mondo sconosciuto, con stupore suo e anche di chi si avvicina per salvare il padrone dell'ombrello. Gli oggetti e i mondi sono costituiti da strati sovrapposti. Per questo ci sono tante cose che il piccolo uomo ignora. Ignora, per esempio, la storia della corona della Statua della Libertà. Pare che l'effigie fosse stata donata dal governo francese agli statunitensi nel 1886 e che abbia viaggiato fino al porto di New York smontata in vari pezzi su una nave chiamata Isère, un semiveliero che coprì il tragitto in 4 lunghe settimane. Nei cantieri navali di Rouen anche oggi si possono vedere delle stampe che raffigurano come vennero raccolti e imbarcati diversi pezzi. La statua, che pesa 225 tonnellate, era composta da 300 pezzi che furono imballati in più di 200 casse. Olivier Legrand era uno dei lavoratori del porto. Prima di essere stivatore era stato minatore e il suo compito per anni era stato riempire le gallerie. Era uno dei lavori peggiori, disfare quello che i suoi compagni avevano fatto, riempire di terra il buco da cui gli altri avevano estratto carbone o metallo. Lui doveva rovesciare terra per riempire di nuovo tutte quelle cavità in modo da poter continuare a scavare più in profondità senza che le gallerie superiori crollassero. Era un compito di vitale importanza il suo, erano tutti d'accordo su questo. Se le buche non fossero state meticolosamente riempite, l'umidità sarebbe penetrata fino alle gallerie inferiori, l'acqua sarebbe filtrata dal soffitto e avrebbe provocato dei crolli con gravi conseguenze per i minatori. Tuttavia Olivier sembrava privo di senso. Disfare quello che gli altri hanno fatto, questo è il mio lavoro, pensava. Riempire il vuoto, un lavoro di riempimento, rovesciare terra dentro trincee sotterranee, come interrare cadaveri invisibili. Lui dava sepoltura al nulla, senza preghiere, solo, senza veglia né pianti. Non faccio niente di utile, se perlomeno estraessi il metallo. Stanco della miniera, Olivier riuscì a trovare un impiego al porto. Iniziò a lavorare sulle gru, anzi, sotto di esse, per essere precisi. Caricava e scaricava casse, un'attività molto più confortante, perlomeno si sentiva utile. Adesso le casse che portava sulle spalle non erano vuote, anche se non sempre ne conosceva il contenuto o la destinazione finale. Era bella, veramente bella, quella Statua della Libertà. Bella anche prima di essere montata. forse addirittura più bella prima di essere montata, perché a volte i frammenti superano la bellezza della totalità. Anche le case vuote sono spesso più interessanti di quelle abitate, così come i quadri più belli di Turner sono quelli non finiti. Lo stesso Guernica di Picasso sprigionava molta più forza prima di essere terminato. Niente può superare la potenza di un'opera d'arte non conclusa. Non esiste un'opera finita che superi un capolavoro lasciato a metà. La libertà, una volta montata e abitata, può diventare una cosa volgare. Olivier non aveva genitori e non aveva nemmeno una moglie. Dai 17 ai 24 anni aveva passato i suoi giorni sottoterra e, visto che tutto lasciava pensare che avrebbe trascorso lì anche il resto della sua vita, si decise a cambiare la miniera con il porto, dove comunque non passò molto tempo prima che si sentisse di nuovo insoddisfatto. Olivier voleva andarsene lontano, in un altro posto, fuggire. Mentre stava prendendo un pastis al bar, gli venne un'idea folle. Voi potete contare il libro. Maurle gurika tresartzikin bat bakarrik Iru metro txoluzean da bizabalean Gosea galankin ere sabelean Atea zabali baino itxita gehiotan Burniziriak lehiotan Bos lagun gaude gela ontan, alkarri bultzak alota, bozi gaudenean ontan. Zorriak barra barra nurean galduzin, gormuz guzia daukate goxie goxin. Inork ez ditu amenoren nume grazin, eltsua eta elbia gainera arkakoxin. Tximutxak ilimak atalo egin ezin. Garretan negarrez dauden piztiak Pena ematen du horrela xegor iltsoak ikustiak Noiz lurmenduko zain jarrita ere zerpiu aldi tristia Era berean arkitzen gera Itxita gauden guztiak Era berean arkitzen gera gauden guztiak era berean arkitzen gera itxita gauden Americo occupato.